Sitana vaia, mana venga con te. Non mi fa male con mille parole. Come si acciappa una stella si cara. In una trova giù, non la voglio giù. Capito, fosse sincero, fosse mi incontrata mai. Non ti può accorgere quando è tutto bene come fai. Non sai rispondere quando ti faccio una domanda. Perché sei solo pure quando non ho più aiutato. Tu non dici mai addio, non si può mai sapere, non si può mai capire. O perché tutto passa pure quando ci chiami e ci rischia di morire. Per sapere che in fondo ognuno ha un modo diverso soffrire. Per sapere come mare si regna che lacrime nostre. Ancora non tenete più tempo con te. Sì, te ne vai.